serenata senza voce, serenata senza pace. Un pensiero ancor mi dice, se vuoi essere felice, qui non devi ritornare. Vecchie mura, ricordate il primo palpito d'amore, dissi giura, ci legammo con un bacio cuore a cuore, tutto è nulla, nulla è tutto, sospirammo quella sera insieme qui, ritornammo vecchie mura. Per un anno ci dicemmo sempre sì, perché rondini passate, non c'è primavera per me, dolore questo mi lasciate, speranza di vita non v'è. Vecchie mura, ricordate il primo palpito d'amore, dissi giura, quella voce non partiva dal suo cuore. Perché rondini passate, non c'è primavera per me, dolore questo mi lasciate, speranza di vita non v'è. Vecchie mura, ricordate il primo palpito d'amore, dissi giura, quella voce non partiva dal suo cuore. Vecchie mura, ricordate il primo amore.